perfettamente. Però se, ah, sento il ritardo dal telefono, più il telefono. Sì, ti sento, Andrea. Francesco? Andrea, il telefonino tuo è spento? Sì. Mi Solo che ci sentiamo con circa senti? 6-7 secondi di ritardo. Mi si andando? Oh. Io ti sento. No. Io non lo so. Ti Cantavo una sento canzone. benissimo. Scusa, E cantavo una io il canzone. click sento. Aspetta, aspetta. Ah, tu mo hai sentito quello che ho detto io prima. È No, non ci penso, non ci scende la propria, ragazzi. vero, Sì. Aspetta, è vero. Perché? aspetta un attimo, chiuda su. No, non chiuda niente. No, no, no, continua, continua. Ascolta solo quello che dico io. Fermati. Ascolta, non parlare, fermati. Allora io adesso faccio le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi. E tu cantaci appresso. Funziona. Esci da me, aspetta. Sto rincoglionendo totalmente. Ma funziona? Andrea, ma io cantavo con la musica. No, tu non canti. Mo è arrivata la telefonata. Francesco, mi senti per telefono? Dimmi di sì, ti prego. Non riesco a fermarlo, cazzo. Aspetta, aspetta.